Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Siamo all'ultima domenica di luglio e cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore per la nostra rassegna dei quotidiani italiani. L'apertura riguarda una novità che interessa tutti noi contribuenti e il titolo è questo: cartelle e mutui, nuova proroga, arriva il super bonus assunzioni. Nel decreto legge di agosto, le anticipazioni poi le trovate a pagina 3 di Gianni Trovati e Claudio Tucci, riscossione bloccata fino a novembre, versamenti sospesi fra marzo e maggio, il 50% si paga nel 2020, il resto nel 2021-2022 e si allunga la moratoria sui prestiti. Inoltre questo super bonus assunzioni significa zero contributi per chi assume a tempo indeterminato. Molto interessante l'inchiesta che poi trovate alle pagine 4 e 5 sul cosiddetto caos degli ammortizzatori, imprese e lavoratori ostaggio appunto di queste, come sempre in Italia, tante leggi, tanti provvedimenti, tanti regolamenti. Pensate, si contano ben 14 strumenti e 23 causali tra ritardi, iter farraginosi e sovrapposizioni. E poi a pagina 10, richiamato in prima pagina con due foto, da una parte Joe Biden, dall'altra Donald Trump, naturalmente parliamo delle presidenziali americane che si terranno il primo martedì di novembre, mancano quindi 100 giorni e appunto Riccardo Barlam e Marco Valsania, corrispondenti dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, parlano di questa sfida dei 100 giorni e le diverse strategie. Oggi sui giornali, a parte del Sole 24 Ore, c'è poca cronaca dagli Stati Uniti ed è veramente, secondo me, una pecca, un buco, perché negli Stati Uniti sta succedendo di tutto. Al di là di questo conto alla rovescia per le presidenziali americane, c'è ancora una crescita esponenziale dei contagi e anche dei decessi per Covid-19. Ci sono i disordini in molte città, c'è la questione molto controversa delle truppe speciali inviate da Trump in alcune città, quindi insomma forse sicuramente le vicende di casa nostra importanti, però gli Stati Uniti, essendo la prima economia del mondo in un anno di elezioni, forse meriterebbero un po' più di costante attenzione. E non è come alcuni ascoltatori sostengono, ci è stato scritto nell'ultima puntata della stagione di Effetto Mondo, che si sia ossessionati da Trump. È appunto che gli Stati Uniti sono comunque il paese più importante in questo momento e da tanti anni ormai nella geopolitica, e quindi cercare di capire che cosa sta succedendo su tanti fronti lì credo sia importante per tutti. E dimenticavo, tra l'altro, e anche questo c'è poca traccia sui giornali, qualche notizia, il nuovo fronte dello scontro tra gli Stati Uniti e la Cina, con la chiusura di alcuni consolati e le accuse reciproche di spionaggio. Corriere della Sera, inchieste Salvini all'attacco, questo è il titolo. Il leader leghista, due punti, metodo Palamara, accusano la Lombardia per colpire me. Il caso naturalmente è quello complicato e che va avanti, si trascina da mesi, della fornitura di camici affidata in un momento di grande emergenza della crisi da Covid all'azienda che al 90% appartiene al cognato di Attilio Fontana, il restante 10% è della moglie di Attilio Fontana, che è la sorella di Andrea Dini, proprietario della Dama, che è l'azienda appunto che produce i camici. Fornitura, poi in mezzo c'è stata un'inchiesta di Report, la fornitura pagata si è trasformata in donazione, e adesso è saltato fuori questo bonifico da un conto personale di Attilio Fontana alla Dama per risarcire in parte, così ha detto lo stesso Fontana, del mancato appalto, perché appunto un appalto che questa produzione che l'azienda ha fatto, ha consegnato alla Regione Lombardia, ripeto, in un momento di grande emergenza, e però poi è stata trasformata in donazione. Vedremo alcuni approfondimenti sui giornali, ci sono giornali che a questa vicenda dedicano pagine, altri meno, e vedremo nei prossimi giorni che cosa verrà fuori. La notizia richiamata in prima pagina con una foto dal Corriere della Sera viene dall'Ungheria, perché il presidente dell'Ungheria Viktor Orban ha deciso di chiudere il quotidiano online index.a, il cui indirizzo online era www.index.hu, era il sito di notizie più letto in Ungheria, soprattutto perché era molto libero, cioè cercava di raccontare la verità come dovrebbero fare, insomma, tutti i giornali quando sono liberi di farlo. E la foto è perché i giornalisti si sono dimessi, le dimissioni dei reporter, per non cedere a Orban. La Repubblica, Fontana, la procura indaga sui conti in Svizzera. Perché questo titolo? Perché questo bonifico che vi dicevo è stato fatto da un conto personale di Attilio Fontana, questo conto in Svizzera è legato alla voluntary disclosure, cioè quella misura, sostanzialmente un condono finanziario decisa nel 2015, quando si diede la possibilità a chi aveva conti all'estero, quindi al momento illegali, detenzione di capitali all'estero, di riportarli in Italia con il cosiddetto scudo fiscale, voluntary disclosure, cioè dire apertamente che si possiedono dei conti all'estero, riportarli in Italia con, naturalmente, pagando una tassa, da qui anche la definizione di condono. Attilio Fontana l'ha fatto, ha anche spiegato che quel conto, che era alle Bahamas, conteneva un'eredità ricevuta dalla madre, e su questo si indaga perché il papà di Attilio Fontana ha fatto tutta la vita al pediatra, la madre era una casalinga, quindi si cerca di capire quei milioni, si cerca di capire se sarà possibile, se sarà lecito e sarà un senso da dove arrivassero quell'ingente eredità. Il titolo il sommario della Repubblica: accusato dai PM di frode in pubbliche forniture, perché, lo dicevamo, il bonifico è legato a quella fornitura il cui pagamento era previsto ma fu poi trasformato in donazione da parte della dama. Il governatore ha risposto: non mollo, perché sono arrivate le richieste di dimissioni da parte dell'opposizione in Lombardia, che è fatta da PD e Movimento 5 Stelle. Alla Lombardia non è costato nulla. Tra l'altro, questo bonifico, da cui è nato tutto, dal conto di Fontana in Svizzera alla dama, in realtà non è mai andato a buon fine. Nel mirino il tentato bonifico al cognato da un conto ereditato dalla madre oltre confine. E poi la reazione di Salvini, che ha definito questa giustizia orologeria, termine coniato ai tempi delle inchieste su Berlusconi, e poi ha anche usato il paragone con il metodo Palamara, il PM sotto inchiesta a Perugia per le sue malversazioni all'interno dell'ANM e del CSM. È stupenda la vignetta di Altan, è uno dei personaggi di Altan, tra l'altro ha in mano quella che potrebbe essere una specie di palla per vedere nel futuro, e dice: mi serve la task force per capire cosa voglio fare. Il tema, naturalmente, è anche quello del recovery fund e di quella che viene definita, con un, anche se volete, abuso di un termine inglese, nel senso che se ne potrebbe veramente in questo caso tranquillamente usare uno italiano, ma insomma la governance del recovery fund, cioè come decidere come usare questi miliardi del recovery fund, che, come ricordiamo sempre, arriveranno sì, ma nella primavera del 2021, e solo dopo venisse approvato il piano che l'Italia deve consegnare alla Commissione europea entro ottobre su come utilizzare questi miliardi. In edicola, come ogni domenica, con la Repubblica, l'Espresso. questo la copertina è dedicata all'anniversario della strage di Bologna. Chi è stato? Parliamo del 1980 e a distanza appunto di 40 anni ancora la verità non c'è. Milioni di dollari dalla P2 per finanziare i terroristi neofascisti e complici negli apparati, le carte inedite svelano mandanti della pagina nera della storia repubblicana. La Stampa titola così: Salvini 2 punti, facciamo paura, ci vogliono distruggere. E poi Fontana, che su questo conto all'estero ha raccontato, anche perché le carte parlavano da sole, quindi doveva comunque fare le sue dichiarazioni corrispondono poi alla verità delle carte, ripeto, quindi conto all'estero, capitale scudato di un'eredità materna. La foto è quella di un militare che passeggia con la mascherina, naturalmente, con una spiaggia di Ventimiglia, maxi multe per chi non ha la mascherina. Per ora appunto le maxi multe sono previste, ma sono state date soltanto in campagna. L'intervista importante della Stampa di oggi è al ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, e si sceglie di titolare per una volta non sul controverso tema del ritorno a scuola e delle forniture di banchi, ma su una delle risposte che ha dato Lucia Azzolina sulla questione dell'abbandono scolastico. Allarme Azzolina, troppi ragazzi in fuga da scuola. La Verità, che ieri ha fatto questo scoop sul compagno, che poi adesso si scopre dalle dichiarazioni di Casalino forse non essere già più il suo compagno, in ogni caso il compagno di Rocco Casalino, ex responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle e poi, da quando Conte è premier, portavoce del premier Conte, il suo compagno avrebbe perso cifre molto alte, 18.000 euro, nel trading online. Il trading online è quella pratica di fare trading, cioè di comprare e vendere azioni online. È una pratica che va fatta evidentemente avendo gli strumenti, se no si rischia, come è successo al compagno che si chiama José Carlos Alvarez Aguilla, come è successo appunto di perdere 18.000 euro. Lo scoop è della Verità. Casalino però, siccome ha un ruolo molto importante, che è quello di portavoce del premier, ha commentato la vicenda, e quindi La Verità titola: la versione di Casalino a difesa del compagno è ludopatico, per noi è un momento difficile. Ma questo è quello che in gergo giornalistico viene chiamato il palchettone, cioè l'articolo richiamato subito sotto il nome della testata. Il titolo vero e proprio della prima pagina riguarda l'inchiesta sul governatore Fontana. Parta la caccia grossa alla Lega, le inchieste in Lombardia e i Dem in agguato. E poi un'ipotesi, un retroscena proposto dalla Verità, che sarebbe in vista un rimpasto di governo. Dietro il ricatto sul MES di PD e Italia Viva c'è voglia di rimpasto, la Boschi sogna l'istruzione. Il Messaggero: Fontana indagato, tutte le accuse. Dal Messaggero, in prima pagina richiamata l'intervista, diciamo importante invece di oggi, del Messaggero, che è alla Presidente della Camera Maria Elisabetta Casellati. Il virgolettato scelto per titolare l'intervista: ricoveri, il Premier sappia che l'ultima parola spetta alle Camere. La fotonotizia invece è quella di Franchi Dettori, il più famoso fantino di origine italiana che è impegnato nel Regno Unito, che scrive il Messaggero: Dettori, come il mito Piggott, fa il record ed è re di Ascot. E poi c'è un altro italiano che si è fatto onore in Inghilterra, il golfista Paratore, e anche questo il Messaggero lo ricorda: golf, il romano Paratore conquista l'Inghilterra. Noi ci lasciamo un attimo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. all'ascoltatore che dice ossessione Fontana, sto facendo una rassegna stampa, la maggior parte dei titoli dei giornali, dei titoli principali, delle prime pagine dei giornali sono dedicati a Fontana, quindi più che un'ossessione è quello che devo fare facendo una rassegna stampa. E però siccome tempo fa, insomma, raccogliendo anche tanti suggerimenti, ho deciso di non leggere spesso i messaggi, di non leggerli al microfono, poi io li leggo tutti, però siccome vi invitiamo a mandare messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp, a un certo punto mi chiedo anche se mantenere questa linea. No, credo che sia giusto ogni tanto, specie su temi così controversi ma anche dolorosi, è sempre doloroso leggere di inchieste, seguirne poi auspicatamente i passi successivi, perché poi purtroppo questa sì che è una cattivissima abitudine dei giornali, ma che rispecchia forse anche il modo in cui affrontiamo in Italia le questioni, cioè di parlarne tanto per qualche giorno e poi non seguirle più perché è faticoso, perché vuol dire a volte dire l'impressione iniziale era sbagliata o confermare e spiegare perché l'impressione iniziale era giusta. In ogni caso, questo per dire che all'ascoltatore che dice non capisco perché non si parla mai dei 50 milioni di fornitura di mascherine mai arrivate in Lazio, allora l'avevo previsto tra qualche minuto, però vi leggo subito la prima pagina del giornale, che in realtà ha l'apertura dedicata alle discussioni che si stanno facendo su come fu condotta una delle tante inchieste su Berlusconi, processo a Berlusconi, ecco chi ha protetto il plotone di esecuzione. Ma l'intervista, anche in questo caso l'intervista importante di oggi del giornale, è proprio a Matteo Salvini e naturalmente è titolata su Fontana, Fontana, MES e le elezioni, la versione di Salvini. E vi leggo alcune risposte, inizia in prima pagina e poi continua a pagina 3, e le pagine 2 e 3 sono proprio dedicate a quello che viene definito l'assalto alla Lombardia. E per appunto facendo riferimento al messaggio dell'ascoltatore, Alessandro Sallusti, l'intervista è del direttore del giornale Alessandro Sallusti, dice: mi spiace insistere, ma oggi si parla della Lega per questioni giudiziarie a partire dalla questione Lombardia. E Salvini risponde: è una vera vergogna. Oggi magistrati e giornalisti mettono nel mirino il Policlinico San Matteo di Pavia, sapete che lì c'è la vicenda di Asorin, che è una delle eccellenze mondiali della sanità. Prima di farlo, magistrati e giornalisti dovrebbero sciacquarsi la bocca, quantomeno studiare. E il caso Fontana? Vogliamo parlare di un'inchiesta su una donazione? Vogliamo parlare dei 35 milioni che la Regione Lazio ha speso per mascherine mai arrivate? Su Zingaretti non c'è uno straccio di inchiesta, chissà perché. Perché? Chiede Sallusti. Studiate il caso Palamara e capirete come funziona la giustizia in questo paese. Come funziona? Non faccia il finto tonto. Conosco Attilio Fontana e conosco personalmente alcuni dei medici del San Matteo che sono coinvolti in questa surreale vicenda giudiziaria e le garantisco, sono persone eccezionali. Non si entra alle 5 della mattina in casa di uno come il professor Venturi, appunto del San Matteo, manco fosse un delinquente comune. Ma è interessante anche la risposta sull'emergenza economica, perché chiede Sallusti: pronostici sulle elezioni, Conte tornerà sul pianeta Terra e Sallusti dice però intanto lui ha portato a casa oltre 200 miliardi, parliamo del recovery fund, e Salvini risponde: parliamo di un prestito in gran parte da restituire che arriverà non prima di un anno, non è quello di cui l'Italia ha bisogno. E Sallusti insiste: va bene, ma allora le dico, il MES arriverebbe subito, ma lei è contrario. Il MES fa rima con commissariamento, risponde Salvini. E Sallusti azzarda: non mi risulta, ma diciamo che è come dice lei, qual è l'alternativa? E Salvini risponde: emettere buoni del tesoro. In questo momento i titoli di Stato italiani vanno a ruba, hanno interessi bassi. Se tu emetti 37 miliardi di titoli del tesoro, l'equivalente del MES, dal lunedì al venerdì vanno a ruba e sono soldi che devi restituire agli italiani e non a un fondo che ha sede in Lussemburgo che non risponde a niente a nessuno. In realtà i tassi di interesse poi dei titoli di Stato, ma Salvini credo lo sappia, e anche Sallusti sicuramente, poi dipendono dallo spread, quindi non è affatto detto che restino così bassi. Comunque sulla questione sicuramente si parlerà anche nei prossimi giorni, perché sapete che è un punto sul quale il PD e il Movimento 5 Stelle, i due principali partiti della maggioranza di governo, non hanno opinioni concordanti. Allora, Avvenire invece, prima pagina, in fila per il cibo, questo è il titolo dell'Avvenire, perché oltre, dicevamo, all'emergenza economica, anche al tema di rinviare le cartelle esattoriali e di come riuscire a tamponare ulteriormente, è stato appena chiesto un ulteriore sforamento di bilancio per 20 miliardi, quindi ma servono ancora altri soldi, da qui la discussione sul MES o sul Recovery Fund, e intanto l'Avvenire ci racconta gli effetti della pandemia sociale. A Torino sono triplicate le richieste di aiuto, l'arcivescovo Nosiglia, dopo il caso Embraco, l'ennesima azienda in crisi, ascoltare gli operai senza voce. In prima pagina anche il tema Fontana, bufera su Fontana indagato, una spina anche per Salvini. In tutto questo vi segnalo che, a proposito appunto di seguire le vicende definite importantissime a giorni alterni, concedendo a queste vicende i titoli di prima pagina e poi invece solo titoli nelle pagine interne, per esempio appunto la questione Piacenza dal Giorno, per esempio il Giorno: Fontana indagato, bagarre politica, foto dedicata ai cantieri in autostrada, maxicode in Liguria, Calvario a 1 e a 14, e il titolo è L'ingorgo, con tre pagine, da pagina 3 a pagina 5, e poi in fondo, ma è la scelta che fanno quasi tutti i giornali, un titolo dedicato agli interrogatori di ieri a Piacenza per la vicenda della caserma dei carabinieri posta sotto sequestro e agli arresti che ci sono stati. Il Giorno, per esempio, si dedica a Maria Luisa, compagna del principale impuntato, dark lady dell'appuntato. Libero: ecco perché il governatore è innocente, Fontana nel tritacarne, è accusato di aver pilotato un appalto a favore del cognato, ma in realtà ha costretto il familiare a trasformare l'affare in una donazione alla regione a costo di smenarci 250.000 euro di tasca sua. Il commento è di Vittorio Feltri, direttore di Libero: indagano il presidente per prendersi la regione, quindi la linea anche del leader della Lega Matteo Salvini, la sinistra non conosce vergogna. Altro sulla questione Piacenza, Libero ospita due opinioni, una è del condirettore Pietro Senaldi e l'altra è di Filippo Facci, editorialista di Libero. Quindi, da una parte, giusto indignarsi contro i carabinieri, il titolo dell'articolo di Facci, che poi trovate a pagina 9, non si getta il bimbo con l'acqua sporca, quello di Pietro Senaldi, che anche questo poi lo trovate a pagina 9. Perché il Filippo Facci non è d'accordo col titolo fatto ieri da Libero, che era La dolce vita dei carabinieri indigna, tra parentesi, troppo, messo tra parentesi nel titolo, gli italiani. C'è anche un editoriale in prima pagina di Antonio Socci che torna, questa sì che sembra essere un'ossessione, non mia ma di Antonio Socci, sulla legge Zan contro l'omofobia, e il titolo di questo articolo, che poi trovate a pagina 11, Addio alla libertà delle opinioni. Il Manifesto, non so, io tante volte, insomma, credo di non essere l'unica, restiamo sorpresi dalla inventività di chi sceglie il titolo di prima pagina del Manifesto, che è sempre un gioco di parole. L'ironia sul Covid, però, veramente potremmo tutti risparmiarcela, credo. Invece il Manifesto non se la risparmia e non ce la risparmia. Il titolo è questo: Gatto ci Covid. La foto è quella di Attilio Fontana, la fornatura di 75 camici per il Covid alla regione Lombardia da parte della società del cognato di Fontana diventa un caso politico. E poi in prima pagina anche appunto gli aggiornamenti sull'inchiesta di Piacenza, Montella l'ha puntato alle corde, prime ammissioni. Il Fatto Quotidiano: lo sgovernatore della Svizzera. I conti all'estero. Fontana è indagato per l'appalto camici a suo cognato, bugie e giri di soldi dalle Bahamas all'UBS, 5,3 milioni sbiancati con la voluntary disclosure. E l'editoriale di Marco Travaglio naturalmente è dedicato alla vicenda. Invito a scomparire. Vi dicevo della vicenda di Rocco Casalino. Ecco, anche qui ho tenuto solo tre quotidiani per capire come la trattano in modo diverso. Il Corriere della Sera, pagina 6, una pagina intera con una foto che ritrae Rocco Casalino insieme a José Carlos Alvarez Aguilla. E Alessandro Trocino è andato a casa di Casalino per cercare di capire il suo stato d'animo. E Casalino ha detto: non sapevo nulla, ha iniziato con il lockdown, ha perso 18, il Alvarez ha spiegato di aver perso questi 18.000 euro per tutta colpa del petrolio, e Casalino dice appunto è ludopatia. Il gioco in borsa del partner, ex da mesi, ma io non sapevo nulla, ha iniziato nel lockdown. Poi c'è anche una foto che ritrae Casalino in questa casa romana e scopriamo che Casalino ha anche l'hobby della pittura, e questa foto lo ritrae appunto davanti a un suo quadro. La Verità, che ieri ha fatto lo scoop su questa vicenda, una pagina devo dire più sobria di quella del Corriere. La foto, in questo caso nella foto del Corriere, i due erano in discoteca mentre qui erano in spiaggia. Casalino difende il compagno, è ludopatico. Il Fatto Quotidiano, forse ci aspettavamo, vista l'attenzione del Fatto Quotidiano per il Movimento 5 Stelle, qualcosa di più. In realtà qui la foto è di Casalino al telefono, uno di quegli scatti che erano circolati lungo Stati Generali dell'Economia a Villa Panfili, al cellulare nel giardino, e l'articolo è a pagina 15, senza richiamo in prima pagina. L'antiriciclaggio indaga sul compagno di Casalino, vittima del trading online. Come si possa essere adesso, al di là di tutto, già questo, vittima del trading online? Cioè, uno sceglie scientemente di fare una cosa per la quale ci vogliono grandissime capacità, che è quella del trading, già solo farlo professionalmente, fisicamente, farlo online è ancora più difficile, e poi si diventa vittime. Vabbè, scelta delle parole un po' così strana. Noi però ci dobbiamo lasciare per una pausa, sentiremo gli aggiornamenti sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, l'ultima parte della nostra rassegna. Abbiamo dedicato molto spazio alle prime pagine, ma dalle pagine interne vi segnalo l'interessante inchiesta, pagina 4 e 5 del Sole 24 Ore, su questo labirinto della cassa integrazione. Ogni 98 euro in sussidi, solo 2 alle politiche attive. E questo è il grande tema, sempre irrisolto. Io 20 anni fa mi ricordo un libro di Elio Veltri che invitava a fare il confronto tra il numero di leggi che ci sono in Italia e quelle che ci sono in Germania. Noi siamo a 10 volte tanto, nel frattempo chissà quanto ancora è aumentato quel divario, per dire che ci sono troppe regole, troppi provvedimenti. Sappiamo che quando una legge viene promulgata poi bisogna aspettare tutti i decreti attuativi, e quando siamo in un'emergenza economica e stiamo parlando del appunto caos per ottenere la cassa ordinaria, la cassa straordinaria, la cassa in deroga, i fondi di solidarietà, ecco, l'emergenza si capisce ancora di più e la spiegano. Bisogna dedicare un po' di tempo a leggere tutte queste cose, ma spiegano tutto molto bene alle pagine 4 e 5 appunto gli articoli di Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci e di tanti altri colleghi del Sole 24 Ore. A proposito di trading online e di come sia stata evidentemente una tentazione per molti il passare del tempo su internet, magari a comprare troppo o magari a guardare troppi sceneggiati, o appunto, come pare aver fatto ex o non ex compagno di Rocco Casalino, il trading online. E Vittorio Carlini, a pagina 11 del Sole 24 Ore, racconta: Wall Street, il virus scatena frodi e manipolazioni. Negli USA le segnalazioni di possibili illeciti sono aumentate del 35%. Focus degli esperti su oro e indice VIX. In Europa il fenomeno è più limitato. La Consob: in Italia è ancora troppo presto per stilare un bilancio definitivo. Tra l'altro questo tema è legato al tema degli algoritmi in borsa, il cosiddetto fintech. Insomma, il VIX è appunto ha a che fare con questi algoritmi. Come vi dico, cose estremamente complicate, ma non ci vuole un genio per capire che per affrontare temi così complicati non è un gioco. Il trading online non è un gioco. Quindi chi lo fa sapendo di non avere le capacità per farlo dovrebbe assumersene tutte le responsabilità e non dire di essere vittima di un gioco. Dalla pagina di Sport e Business, che ogni domenica esce all'interno del Sole 24 Ore, in questo caso in qualche modo anche qui parliamo di finanza, Marcello Frisone con una tabella che spiega con i dati che cosa si intenda con questo titolo: sportswear big con conti in rosso ma non in borsa, investire nel settore guardando lo stato di salute delle società, giacenze in magazzino, rating creditizi e strategie di e-commerce. Poi vi segnalo le due pagine di Lifestyle, anche in questo caso ogni domenica con il Sole 24 Ore, e ce n'è una dedicata a, il titolo è Così è nato dal degrado la città ideale sull'acqua, ed sono i segreti di Nordhavna Copenaghen, l'esempio urbanistico più sostenibile e più innovativo, con un hotel sulla gru portuale. E sempre un po' a proposito di acqua, di colori dell'estate, la seconda pagina, hotel, tutta dedicata agli hotel storici che per forza di cose poi non sempre, però insomma, sono ancora più belli se hanno questa vista sull'acqua. Una piscina in Costa Azzurra e la vacanza diventò paradiso. È la storia dell'hotel du Cap Eden Rock, mitico rifugio di VIP, attori e artisti, che compie 150 anni, ce lo racconta Stefano Salis. Vi segnalo dal Corriere della Sera anche un'intervista di Paola Di Caro a Silvio Berlusconi intitolata Un sì al MES non è un voto di fiducia. Sapete che Forza Italia è tra le forze di opposizione che è favorevole al MES. Lo stato di emergenza invece, dice Berlusconi, noi siamo contrari. Ma in questi pochi minuti che ci restano, passiamo ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Esperienza, e la citazione è questa: l'esperienza non è ciò che accade a un uomo, è ciò che un uomo fa di quello che accade a lui. E scrive Gianfranco Ravasi: spesso tanti si vantano di aver fatto molte esperienze che si appuntano al petto come medaglie. Eppure rimangono non di rado persone banali, persino insipienti, capaci solo di confermare la folgorante battuta di un aforismo arabo secondo il quale per tanti l'esperienza è come un pettine per i calvi. Il famoso scrittore inglese Aldous Huxley, nella considerazione sopracitata, va dritto al cuore della questione. L'esperienza come fenomeno o evento è un dato oggettivo. E come tale può essere registrato, ma può anche passare sulla persona come acqua sulla pietra. È solo quando diventa soggettiva, cioè elaborata consapevolmente, giudicata, criticata, che l'esperienza si trasforma in una componente feconda che arricchisce la vita. Detto questo, vorrei sottolineare la parola criticata, da noi usata. Fare esperienze non vuol dire necessariamente avere esperienza e diventare saggi. È indispensabile un vaglio critico per evitare, e ciò su cui ironizzava Mark Twain, di fare come il gatto, che sedutosi su una stufa rovente, in futuro non eviterà solo le piastre ardenti, ma anche quelle fredde. Ma non lo so, secondo me i gatti imparano dall'esperienza, però... almeno i gatti che ho avuto io, però forse è vero che insomma sicuramente non hanno gli strumenti che abbiamo noi esseri umani per imparare dalle esperienze e non solo farle. La copertina vera e propria però è una lunga recensione di Vincenzo Barone a un libro di Richard Panek appena pubblicato da Raffaello Cortina, che si intitola Il mistero sotto i nostri piedi, l'enigma della gravità. Forze della natura, la storia affascinante della presenza che agisce sotto di noi e ci tiene con i piedi per terra. E poi un bellissimo ricordo di Marco Magnifico di Giulia Maria Crespi, che è morta qualche giorno fa a quasi 96 anni. Era nata nel 1923, famosa soprattutto per essere stata la fondatrice del Fondo per l'Ambiente Italiano, una forma di associazione a favore del patrimonio culturale e artistico di un paese, che poi è stato preso da esempio in tantissimi altri paesi. E qui Marco Magnifico ce la ricorda, il carattere, gli ideali, l'amore per le sfide e per il lavoro di squadra, il ricordo di chi le è stato accanto per decenni fino agli ultimi giorni che ha trascorso, cioè, ci racconta Marco Magnifico, ascoltando la Sesta Sinfonia di Beethoven. E poi c'è anche un piccolo intervento di Giulia Maria Crespi, la storia assurda ma vera del nostro Fai. Di Eliana Di Caro un'altra recensione, questa volta un libro di Sandra Bonsanti uscito per Archinto, che si intitola Stanotte dormerai nel letto del re, e appunto Sandra Bonsanti racconta la cultura contro la dittatura, Firenze nelle mani dei fascisti e dei tedeschi, la liberazione nel 44, il racconto di un mondo che combatteva il regime con le riviste, i libri, l'arte. Sandra Bonsanti è stata la prima donna a dirigere un quotidiano italiano, quindi è stata una grande giornalista e ora si dedica anche allo studio della storia, che comunque fa sempre bene. Soprattutto bisognerebbe studiarla e poi appunto leggerla, riflettere, soprattutto quando, qui parliamo del 44, sembra è storia recente, a volte sembra però che dimentichiamo anche la storia recente. E poi, sapete la mia passione per il regno animale e vegetale, vi segnalo questo articolo di Giorgio Vallortigara, ma quel vegetale capisce? Nonostante sia assodato che le piante reagiscono a stimoli singoli ripetuti, studi recenti non sono riusciti a dimostrare che siano capaci di apprendimento associativo. Invece Maria Luisa Colledani ci recensisce questo libro appena uscito da Rizzoli, scritto da Davide Cassani con Giacomo Pellizzari, Il ciclista curioso, scoprire pedalando angoli e scenari meravigliosi d'Italia, bellezze in bicicletta. I tracciati contenuti nel libro sono raccontati chilometro per chilometro tra fontane e pendenze. Invece qui un'altra recensione ancora di Ernesto Ferrero al libro di Paola Mastrocola, famosa per aver scritto molti libri sulla scuola da ex maestra, che si intitola Diario di una talpa, l'ha pubblicato La Nave di Teseo e, come potete immaginare, riguarda i mesi di lockdown dove tutti abbiamo fatto un po' le talpe. Talpa, esci da quella tana, Paola Mastrocola affida all'animale i suoi appunti filosofici sui 3 mesi di lockdown e sul ritorno a una normalità frenata da un'attitudine al distacco e da una triste prudenza. La copertina della lettura del Corriere della Sera, affidata come sempre a un artista questa settimana, Mircea Cantor. E poi vi segnalo dall'interno, a proposito appunto di lockdown, un lungo intervento di Paolo Giordano, che per la lettura aveva già scritto Nel contagio, che poi è diventato un libretto bellissimo, che però era appunto relativo alle prime settimane del lockdown. E qui Le 71 notti, tutti siamo stati chiusi in casa, tutti ci siamo chiesti come sarebbe andata, abbiamo riconsiderato gli spazi domestici, le geometrie familiari sono mutate, tornando indietro o slittando in avanti. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Oggi vi saluto anche con un invito per chi volesse, per chi potesse, a risintonizzarsi domani mattina alle 7:10, 7:15 dopo il GR delle 7, perché appunto inizia la nostra rassegna stampa del mattino di agosto, il palinsesto agostano di Radio 24, anche se siamo ancora all'ultima settimana di luglio, e appunto ci sarò io, quindi vi do appuntamento a domani. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.